Sedecia, figlio di Giosia, divenne re in luogo di Conia, figlio di Joachim. Nabucodonosor, re di Babilonia, lo costituì re nel paese di Giuda. Ma né lui, né i suoi ministri, né il popolo del paese volle ascoltare le parole che il Signore aveva detto per mezzo di Geremia, il profeta. Il re Sedecia inviò Jucal, figlio di Selemia, e il sacerdote Sofonia, figlio di Maasia, a Geremia a dirgli: «Intercedi per noi presso il Signore, Dio nostro». Ora Geremia andava e veniva in mezzo al popolo perché non l'avevano ancora messo in prigione. Intanto l'esercito del Faraone era uscito dall'Egitto. Ne ebbero notizia i Caldei che stavano assediando Gerusalemme e si allontanarono da Gerusalemme. La parola del Signore fu rivolta al profeta Geremia in questi termini: «Così dice il Signore, Dio di Israele. Così direte al re di Giuda che vi ha mandato a me per consultarmi: ecco, l'esercito del Faraone sta uscendo in vostro favore per aiutarvi, ma ritornerà al suo paese, l'Egitto. I Caldei ritorneranno e combatteranno contro questa città, la prenderanno e la bruceranno con il fuoco. Così dice il Signore. Non ingannate voi stessi dicendo: i Caldei si sono allontanati definitivamente da noi. No, non si sono allontanati. Che seppure voi poteste battere l'intero esercito dei Caldei che combattono contro di voi e rimanessero tra loro soltanto dei feriti, ognuno si alzerebbe dalla propria tenda e incendierebbe con il fuoco questa città». Mentre si allontanava l'esercito dei Caldei da Gerusalemme a causa dell'esercito del Faraone, Geremia volle uscire da Gerusalemme per andare nel territorio di Beniamino a prendere la sua eredità. Ma quando egli giunse presso la porta di Beniamino, dove stava a guardia un uomo di nome Ieria, figlio di Selemia, figlio di Anaia, costui arrestò il profeta Geremia dicendo: «Tu stai passando ai Caldei». Geremia rispose: «Menzogna, io non sto passando ai Caldei». Ma Ieria non volle ascoltarlo. Arrestò Geremia e lo consegnò ai principi. I principi si indignarono contro Geremia, lo batterono e lo misero nella prigione, nella casa dello scriba Jonata, che avevano trasformata in prigione. Geremia entrò nella prigione cisterna in mezzo al fetore e vi rimase molti giorni. Il re Sedecia mandò a prenderlo e lo interrogò nella sua casa in segreto. Disse: «C'è una parola da parte del Signore?» Geremia rispose: «C'è», e aggiunse: «In mano del re di Babilonia sarai consegnato». Quindi Geremia disse al re Sedecia: «In che cosa ho peccato contro di te e contro i tuoi ministri e contro questo popolo, perché mi avete messo in prigione? Dove sono i vostri profeti che vi hanno profetizzato: non arriverà il re di Babilonia contro di voi e contro questo paese? Ma tu, o re mio signore, ascolta, ti prego. La mia supplica giunga dinanzi a te, e non farmi ritornare nella casa dello scriba Jonata, affinché io non vi muoia». Allora Sedecia dette ordine di custodire Geremia nel cortile della guardia e di dargli una pagnotta di pane al giorno, portandola dalla via dei fornai, finché non venne a mancare del tutto il pane nella città. Geremia rimase nel cortile della guardia.